Hey, here we are. Drop me, drop me. Hey, wow. Certo. Non so dire che drommo. Si dirà puzza del pomaro, gatta. Ma quello caso di vedù. Oh, sono sempre in giro. Beh, lo fai bene. Meglio hai sì, alla parte di Zaghi un po'. Ma è stai per tu caso come ti so io. Che ti brucaggio. Andiamo per andiamo. Purtroppo è così. Non ti piace, è così. Cosa vuoi fare? Niente, non si può fare niente. Caggio. E andiamo per. Che bello così, non puoi andare. Caccia. Davvero, più bello di sì. Però, cazzo, ancora respiriamo bene. Sì, che si respira, si va avanti. Che ci vuol dire che, cazzo, si fa aria fresca però, anche se non c'è di mare però. Allora, mica aria a casa, l'aria fresca. Ah, io già caggio, non ci fa aria a casa, un bel puro, Ma tra poco mi farà pogare del fresco. Ma con esso? Prego, Gareta, ma dacci pure, ma mi pare che... mi pare che sono tu quattro, c'è più solo, cazzo, tu quattro devi fare, sai che c'è di male, c'è di onore. Sì, quello che stavo dicendo anch'io. E rimane in piedi? Ieri sera c'era Gianni, lo fa vedere un Gianni a rimane. Dai, io ho già steso che erano i 7:15, ma si chiama però per nessuno. Cazzo, ma prima era fatta allora con Gianni. No, stavamo parlando sul 23 qua, con Gianni ieri sera. Abbiamo chiuso le 8:25. Ieri. Chi ha le 8 qua? Ho chiamato, non c'era nessuno. Avanti ieri, che non c'era nessuno. Avanti ieri e l'altro avanti ieri. A due di... non ieri c'ero con Gianni ieri. Ma con Gianni quando eri? Ieri o avanti ieri? Che hanno già chiuso. Perché io alle 8:15 ho chiamato e non c'era nessuno. Ieri stavo parlando con Gianni, si è affacciato lui e mi sono messo a parlare con lui, sono dalle 7:10 sino alle 7:25. Perché sono entrato, io ho chiamato e non c'era nessuno, ma con un'anima vera, né l'udente né i nomi. Comunque avete chiacchierato, io va bene così. Io lo credo, abbiamo cacciato un po'. Sì, c'è andata, è andata. Ah, va bene ugualmente. Io ho chiesto tardi. Ho chiamato, ho visto che non c'era nessuno, allora aspetto subito. E cosa vuoi fare? Si è accostato il QRM, non saranno. Ma che bussato c'è il QRM? Mi pare che era già... 3-4. Infatti guardando ieri non c'è niente, sarebbe che niente, mi pare che era 3-4, mi pare, o 5, anzi 5 era, 5-6 il guardando. E per oggi, insomma, è un po' così, 3-4 viraggio. Adesso ce l'ha 7 il guardando io. Qua è a 7 il quarrenne, forse da te più aperto, io ce l'ho, aspetta un attimino. Vabbè, più o meno, poi, non sono tutti uguali, no, i segnali da uno all'altro cambia anche, no, così che, non è 7, magari da te è più poco, più, boh, può capitare, no? Infatti è così, 6-7. E allora, cosa ha combinato oggi? Ci voglio prendere nel torrente. Poi tu mangiare, ho fatto la pesce e me ne seguo tornare da notte. E poi sono andato stasera a accompagnare mia figlia. E poi sono andato a pigliare la signora. Ecco, di che cazzo sei sbagliato, dai. scala va bene così. No, non sono uscito così. Sono sceso in magazzino e basta. Sceso, salito, boh, tutta la ricarica. Il rubreco. Infatti è così. Un po' caro freco. Ah, potremmo un po' caro da danarci, piano piano. A Maragana. Si può adattarsi, bisogna. Piano piano è andente, piano piano, dai. Io ho la vento accesa, già ci sta bene, però quando mi sono messo a riposare ho acceso anche il condizionatore. Poi ho fatto un vento, allora di fuori e ho acceso la vento, è scattato di me. Adesso infatti è così. Infatti è così purtroppo. E abbassa la televisione, si intende troppo la televisione. La televisione si intende, ma dire, oggi si è aumentato. È sensibile questo microfono, sembra così ma è sensibile. No, disturba, però si sente, capito? Adesso si sente. Sì, ma poca roba, poca roba, va bene così ciò. L'ho abbassato un pochettino. Tanto. Non si va bene. Ehi, ehi, va bene così, va. Ma. Sai chi c'è andato a sapere, sarà apparecchio, sì? No, io sono andato sempre bene. Non si ferma mai. Ma è buono, eh. È buono. Buono, allora se lo mangiamo. Ah, pure l'affetto lo potremmo fare. Cioè, stai usando l'MP5? No, l'MP4 sto usando. Sì, sono l'MP5 è fermo. Ah, eccolo là, è l'MP600, non lo sai usare. C'ho sopra quell'altro preciso che c'hai tu, sopra quell'apparecchio ricciolo. Ah, ecco. Che quello lì è. Bene, bene, bene, bene. Ehi, avevo un torto, ne ho messo un altro. Adesso è il penultimo questo, quindi che sta andando bene. E ogni tanto bisogna provare con qualcuno, la pizza. Io ci annoia le truppe e di burro. Fai bene. Fai bene, ogni tanto ne metti uno, ne metti. Uscire proprio tutti. Allora se non si ribiglia la malinconia è di burro. Con i cristiani. A momenti cioè, dobbiamo momenti così. Tu a dare me. Sì, infatti bisogna fare luce, bisogna fare. Ogni andato bisogna provarne uno. E allora, certo. Ecco l'altro grande, non l'hai usato più, quello preciso al mio. Grande, l'anno grande ce l'avevo ieri mattina acceso. Cioè, lo stavo ascoltando, ma non vedo nessuno. Che francese, vedo. E boh. Io l'ho acceso, ma non c'è nessuno. Tutti molti, poi ci sono tutti in giro, fare il vesti, capito? Qualcuno è a sera, ma francesi si sentivano, i francesi. Infatti, perché francesi non intendi? Che si chiama Corsica. Anche adesso in Corsica, anche i corsicani si sentono, certo no. Anche a Parigi, cazzo, questo macello che vede l'Olimpiada là, è un bello macello. Sì, infatti è così, ogni tanto, qualcuno si intende. Il bellato ha circolato da buco. Tanto, io già, a me già che andato a posarmi a una bassa rubrico. Sì, vabbè. Guarda, io certe volte l'accendo, anche se c'è qualcuno, però boh, non lo so, non faccio più la pazienza di prima, capito? Magari hai qualche 5 minuti e hanno messo anche il suo giudizio. Infatti, io pure, 5 minuti è durato. Poi mi sono giaccato e me ne sono andato a appoggiare a Marofreco. Caldo ha fatto oggi, no? Oggi ha fatto caldo e poi. Oh, c'è un via di caldo, eh. E io quando ando a appoggiarmi, un buongiorno, sono mangiato, è vero a caldo pure, oggi sta, no, meno 30, fate più bene. A me sono bruciato un prezzo. Ma ieri, in divisione gli angeli, gli ha fatto un freccetto, gli ha fatto un freccetto, per l'ombra, l'arietta mi sarà, no. Ma dove faccio la tenda la mattina lì, al poggio c'è il sole. Eccolia, ne verrà caldo. Ah, mi dice che entra da dentro, mi dice che bucia da un abbassi. Già me lo trombendo così. A te lo mangiamo senza il cucino al risore, no? Senza magari la metà mezzo di risore, no, che cucina, no? No, ce l'ho dall'altra parte. Dalla parte del poggio ce l'ho. Di cucina c'ho il fresco la mattina. Il pomeriggio è dalle due in su che comincia a bere il sole in cucina. È poco più un bello, cazzo, me l'ha detto, cazzo, io da una gamba lastra, io non mi frego, anche per un contratto anch'io, sì, è rimasto a gamba per un fuoco, credo. Infatti, mio moglie si è acceso l'orologio, anche in cucina, ma è per un giorno. Anche qua nella cameretta si vede il sole, però va già girando abbastanza, sono 10 cm alzata, però vai prendendo un pochino di freddo. Ti volevo dire una cosa, ma il PNR non c'è una voce a chi ci operai nell'aeroporto se ti fa un periodo, adesso come mai non c'è nessuno? Perché hanno cambiato la frequenza, hanno cambiato e non li senti. Ah, ecco perché, cazzo, prima sentivo tra di loro chiacchierando, capito? Fai questo, fai là, qui c'è, adesso non c'è più nessuno. Ecco, hanno cambiato frequenza. Hanno già cambiato frequenza, hanno già cambiato. Hanno già avuto che accostavami, allora hanno già cambiato frequenza. Ma è tra 7 canali oppure canali che non possiamo ascoltare? No, deve essere canali che non possiamo ascoltare. Ah, ecco, ho capito bene. E perché prima se dicevo di tutto, dicevo, che vabbè, anche quello va bene così. E per quello infatti io provo a accendere il portatile, non so muovi, non vedi più, ma curare ma. C'ho un amico che lavora lì, e me l'ha detto, no, avevo già un po' di frequenza, anzi 2 anni fa sta già un po', perché c'erano in combutta con altri, erano, però gli hanno cambiato la frequenza. Ah, ho capito. E quello usa apparecchi normali come quei permessi speciali che hanno, no? Loro sono all'aeroporto e usano frequenze diverse. Siccome c'erano altri che usavano l'apparecchio ed erano quasi vicino e siccome allora gli hanno dato un'altra frequenza diversa. Non fa che il PNR, il canale 7 non c'è più nessuno, non c'è baculare, ma certe volte l'accendo, vuol dire, ma non c'è baculare, ma. Non c'è più nessuno, non so che cosa abbiano fatto, boh. Non si può più entrare, ma con noi. Il savanzonello che già si può usare, così ho sentito l'altra volta, dice qualche volta è entrato anche lui. Io già si può usare, ma che non ho per nessuno già tratti, non so più una cosa che lavorano, pensa un po'. Se non c'è nessuno, perché ci sono 6 canali o 7 canali del PNR, no? 8 canali sono. Quindi che, hai 8 canali, non c'è mai nessuno, puoi immaginare. Ma che lì è tutto morto, Tutto morto e sepolto. Gli altri canali di coso, qualcuno lì lo sta entrando. Sul lavoro, in quegli altri altri canali però. Oh, vabbè. No, così, ogni tanto magari l'accendo, non c'è portatile, c'è il maresciallo, segue tutto. E cosa vuoi fare? E prima tutti i PMR, ma più PMR nessuno. Oh, c'hai anche la 27, sta andando a... Hai malora. E trova cosa vuoi fare? Vieni, passa. Ma c'è un attimino, che vega uno che sta sbatterando forte. Aspetta. No, tanto che uno deve essere un vicino di casa che sta sbatterando. No. Ma l'altra notte mi ha fatto una persona, non faccio il nome, e ti ricordi una sera intanto stava fischiando facendo una smuffia che tu hai detto c'è qualcuno che sta rompendo, ti ricordi? E questa persona mi ha telefonato e mi ha detto, mi ha fatto il nome di questa persona e la saga può essere, capito? Ha cercato di me? Chi tu l'hai detto cosa che è entrato a fischiarti, ha fatto un verso strano. Ti ricordi la sera? Caspita, era Bruscelli, aveva visto che c'era gente. Ma doveva fischiare. Ma te se puoi affrusciare vuol dire a disturbare a noi. E questo me l'ha detto, dice, l'ho pensato, dice, sono io, dice, il tizio e il caglio, boh, e vabbè, non mi interessa, faccia quello che vuole, capito? Però te l'ho voluto dire questo particolare, E non si sa, il gatto te lo bruci una volta, basta entrare, invece di bruciare, basta entrare, fa guardavoli. Basta mandarti da paghi due paesi, se mu fai, ciao. Cosa, tu sa come la baita niente, non sarà solo. Io quando la giudico che cosa, la dico e poi rientra. Ma se va a entrare e dillo. Chi è che sta squacciando? Siete da vicino? Aspetta un attimo, ma lo sento vicino sbattere. Certo, è forse buono. E allora vicino a noi, io non lo sento. Io non lo so, allora dalla parte tua. Dovrebbe essere. Siamo dalla parte mia, però ho guardato, su 10 non c'è. Come se in canali alti. E mettici lo squarciato, a fucidine. Mettici lo squarciato a fucidine. No, è al momento che si fa. Sono in banda laterale. No, non lo sento io. No, in questo non sento nessuno. Qua se c'è di buono c'è parecchio, anche se vicino non sento nulla, riesco a eliminarli tutti, già c'ho anche lo squelch inserito. Io ho messo lo squelch, ho inserito lo squelch, a mano lo intendo. Non cazzo è questo qua, purtroppo quando siamo vicini uno con l'altro è chiaro che entra in risonanza, entra, capito, per cui, però... Se l'apparecchio è buono non dovrebbe entrare, però in qualche apparecchio entra. E in questo entra un po', anche se ho messo il filtro un po' entra. Ma se lo squelce non entra qua. Vabbè. Da noi come se tanti anni fa, dai, che uno è stato all'altro, non si riesce a comprare niente. Vabbè, assieme poco, per cui possiamo chiacchierare tranquilli e pacifici, dai. Infatti è così, purtroppo. Già andiamo bene. Controllato hai per il PL. Sto sempre cercando Giovanni, ne ho trovato due, però sono sempre quelli in plastica, sono degli in plastica. Uno l'ho trovato di quelli rossi, però è sempre con i cosi a gradazione, ecco cosa è. Grazie, come ci sono spariti. Si vede che va per commercio, forse per quello non le stanno mettendo allora. Stanno mettendo solo quelli in plastica bianchi che fanno piattaria, ragazzi. Stanno mettendo di quelli bianchi, stanno mettendo. Di quelli già ne ho trovato parecchi. Però degli altri ne ho trovato uno solo, però con il coso. Stavo cercando in altri posti, non vado a fare. Evidentemente non si trovano più, allora non li stanno facendo. Si vede che non c'è commercio, allora hanno smesso di fare, stanno continuando a fare, insomma, o magari questi ce l'hanno, questi bianchi, si vede che sono da parecchio e sono sempre in vendita, mentre invece quelli là non ce ne sono più, la roba più buona non la mettono, cazzo, la c'è caduta. A pensare, la facevano pagare di più, però almeno uno aveva delle cose più buone, no? Infatti, ma so che dopo le chiedo questo qua, dopo li prende lui, questo di Sant'Orsola. Ci stavo parlando l'altro giorno e mi dice che ho dimenticato di mandare via. Mi faccio dare l'indirizzo a vedere dove li prende. Se ti ricordi capita, chiedere a vedere un po', perché già servono, se lo sa dove sono, li prendiamo, perché servono sempre. Loro lo sanno da dove andarlo a prendere, quindi a Puglia, certo. In internet no. Sono quadri. Quadri. Cosa di qua a fare? Fa sverciare i bianchi. Si vede che i bianchi ce ne sono troppi. Allora quelli là li hanno nascosti, ma non credo, Ok, il commercio li metteranno senz'altro se ci sono. No, ma evidentemente non c'è commercio oppure ha fallito la ditta. Era visto, però c'aveva di quelli rossi con riduttore. Ti dice non ne vuole con riduttore. Ho guardato a vedere se ce ne erano altri nello stesso sito, ma non vado a fare. Non ce n'erano altri. Solo quelli con riduttore riuscivo a trovare. Ma bianchi? Uno di quelli rossi ne ho trovato col riduttore, però. Ecco, gli altri sono migliori. Quegli altri sono migliori che ha vista la filettatura per la calza, che la trincia bene. Quelli sono migliori. Io avevo preso parecchio da Pisano ed era così, poi non mi ha portato più, adesso sono con riduttore quelli che sta a Pisano, mi sembra. Ma sono i bianchi gli fa, con riduttore e quelli bianchi, però non servono a nulla, li commentizzare, andassi là, si scioglie la plastica. No, bianco lo prendo, non servono, quei bianchi non servono, per carità. E vabbè, se dovesse capitare che quello salvo ve ne prende, se viene bene li prendiamo, se ho pazienza, cosa vuoi fare? Sì, già, quando lo torno a trovare e ci parlo, lo chiedo a vedere. Vedo se ci trovano. Perché magari ci saranno queste cose. Ah, ma forse qualche ditta, ma se lo sai dove sono, quale ditta è, perché è chiaro, magari è sul computer e non li trovi, magari sai qualche ditta che li vende così sotto, boh. Infatti, dove comprano i radioamatori, loro sanno dove è, in internet non è messo. Tra di loro magari ne parlano e da uno all'altro passano le voci e sanno dove ci trovano. E per cui va, se trovi quello lì, vedi un po' se cosa ti dice. Non faccio dire l'indirizzo dove li prende. Io bianchi ne ho qualcuno, ma non li metto nemmeno. Poi sono con il riduttore, non li metto più di quelli lì, capito? Si chiedono, mi aggiusto questi che ho adesso e te la cappa. Per adesso va bene questi che ho da voi, però se li troviamo li prendiamo. Sì, pazienza. Qualche duno già ce l'ho libero. C'ho qualche duno anche col riduttore di quelli rossi. Però me li lascio d'emergenza. E stavo dicendo, va bene, non è che ho funzionato bene, santo. Sì, no, adesso ci sento benissimo, a Puglia. Certo. Ci sento benissimo, ci sento. Certo. E quanto tempo c'è che sentivi male? Sì, ho voglia, abbastanza bene ci sento, certo, sì, era da fa due volte non riesci a rivivere anche io. Aspetta un attimino, c'ho le cuffie, no? Sono le orecchie tutte sudate, e per forza mi devo mettere le cuffie perché c'è la televisione accesa qua, io ti subacchia lì, capito? Adesso mi sono asciugato e tutte sudate ce le avevo. No, io cuffie non ne metto, che fatene giù da, visto io fatene giù da me, certo, poi ne rarecci mi. Ma infatti, già tutte sudate, e le sono tolte, mi sono asciugato un po'. Cazzo quanto sudano, cazzo. E a pensare non sono grandi, però sudano ugualmente, quella spugna che c'è. Carità. Va bene, sto meglio così, va? Infatti, sono andato in uscita, a Puglia. Che bello di dire, non possiamo andare, va, per cui. Oh, cazzo, l'aria non è ancora, ma così buon virato sto. Ciao, andato, va bene, non ci può sciudare, quindi. Oh. Ogni tanto intendo un poco di freddo, un poco di gas, intendo. Non si può sciogliere. Forse apri, no, io ho la ventola per cui sto bene, però le orecchie ci sono perché c'ho le cuffie, capito? In voce già sto bene perché c'è la ventola accesa. No, ogni tanto sento un po' di freschetto entrando, pure hanno invece da rido. Almeno ti rinfreschi un po', caldo ha fatto oggi, un bel caldo ha fatto oggi. 33 gradi, dammi, in macchina mi segnava 33 gradi. Mi sembra che era di più a me. No, 33 me ne segnava, stamattina me ne segnava 33 lo stesso. Ma in macchina? In macchina me lo segna, mi segna dentro e fuori, mi segna. Ah, io ce l'ho qua anche, appeso sulla griglia c'è il manometro. Ecco, segnava 36 e mezzo, quasi 37. E dentro la camera sì, se ti segna di più ti segna. Però prova a metterlo fuori a vedere. Cazzo, quell'area che c'era poco fa, è un mezzo di bocufura, aumenta. Cazzo, mi metto 38 gradi. Perché c'era aria calda, poco fa ho aperto le finestre e la bombata di aria calda, ho chiuso subito. Io schiaccio il tastino e mi da fuori, e poi schiaccio il tastino e torno e mi da dentro. Dentro mi da via 39 gradi, mi da via, dentro. Mi dava 33 gradi, mi dava. Cambia la macchina ha dentro casa, già la temperatura cambia. Certo, adesso dico in particolare, io qua c'ho fresco perché, ripeto, c'è la petto accesa. Io voglio entrare in camera mia, non corto, perché rimane a faccia al sole proprio in facciata, capito? E in sala la stessa cosa, tutto il giorno il sole ci sta, anche il caldo che c'è. Io posso immaginare in TV, certo, c'è sotto la tettoia, ecco perché c'è caldo. Invece adesso qua, da mezzogiorno e mezzo massimo, c'è sempre l'ombra, per cui la sera si sta bene, dai. per cui perché c'è l'ombra la sera, capito? È meno caldo, ecco, tutto lì. Ma sulle camere no. Oh mamma mia, cazzo, non si boccia, cazzo. Oh, yeah. Dai, cari, due giorni di charge, tutta la vita. A poche fiume. No, io la mattina ce l'ho dalla parte di davanti, la sera ce l'ho qua nella cucina e nella camera. È venuto. E infatti noi siamo dormendo a finestra aperta. Certe volte la mattina, se secondo come c'è la tapparella, entra il sole fino a dentro il letto, si può immaginare. Allora facciamo la tapparella e il sole non entra. Però verso le 11 si sparisce e c'è l'ombra. Oh, ma c'è buccio la ventola. Ma non funziona. Adesso almeno c'è più fresco, va. Ma c'è attaccato un ventilatore e non funziona. E come c'è mai? Ma non senti questo? No, non lo sento perché sono messo lo scratch. Qualcuno le femme. Ah, boh, non intendono. Non lo sento. Io sono le... Lo scratch l'ho sentito, capito? Adesso ho tolto lo scratch. Ma si sente? No, adesso no, non lo sento per niente. Se hai messo lo scratch non lo sentirò. No, l'ho tolto lo scratch, non lo sento a nessuno. Adesso non lo sento nemmeno io, non lo sento. No, non si sente, no. Deve essere se ne è andato. Ma sì. Non è cucinia. No, questo, il FM deve essere. Questo l'FM non ce l'ha. Sì. Adesso l'FM non ce l'ha, quindi non lo posso nemmeno sentire, capito? Ma lo senti di risonanza? No, Giovanni, non sono in FM, perché sono passato, non sono in FM. Ah no, allora sono in banda. Sicuramente, saranno in banda. Ma saranno da fuori stesso, perché c'è un po' di propagazione, quanto senti, vai. Sì, c'è un po' di propagazione, c'è, perché lo senti tu uno forte, però è propagazione. Facciamo cantare anche a loro, che chissà da di so, già arrivino la testa. E capo già arrivino, a voglia. Ma sicuramente arriviamo noi in Buraetti. Va benissimo, taglia su sulla Fendari. Sì, è più vicino. Il sabato passato era la festa a Sennari. Com'è? Sabato scorso c'era la festa a Sennari. Anche a Coso, a Porto Torres c'era la festa. E quando oggi? Sabato. Ah. Sì. E ogni tanto adesso ci sono saccati in festa anche nei paesi, capito? Domani infatti c'è anche la festa di San Lorenzo a Banare, e lì fanno una festa grandissima. Da stasera, tre giorni di festa fanno lì. Infatti. Sabato scorso era anche a Sennori, c'erano delle degustazioni pure. E lì in Sennori, dietro c'è San Lorenzo, lì dovrebbero fare la festa. Mi sembra che era sabato la festa, era la festa di San Lorenzo, che gli aveva bruciato pure. Non è fai a Badari invece domani, e da oggi ormai poi come cambi di giamma, e domani è proprio a San Lorenzo, capito? Il giorno 10. Sì, no, già è così. Infatti, domani c'è festa, c'è. Ma c'è la festa anche sabato scorso a Porto Torres, nella via di Tugiani. Oh, festa qua, festa là. Oh, prima da giovane andavo dappertutto, anche quando facevo le feste nelle campagne, che c'erano queste chiese così, che facevo le feste, andavo, allora si usavano le feste, le canzoni alla sarda, se ti ricordi. Sì, infatti. Purtroppo, ormai le passano tutto così. Siamo ragazzi muovi da casa, va. Va, festa qua, festa là, ma un bel là, gli hanno eliminato, ma va, mezz'ora chissà, per cui, va bene. Bisogna andare in tournée. Eh sì, bisogna andare in tournée, sì. Piatta. Yeah. Sto finta quel tempo, va. Largo ai giovani. Largo, sì. Piatta. Passo che... Va bene, so io chiudo, dai. Grazie la chiacchierata. Anche se breve, fa sempre piacere, vai. Buon proseguimento, saluto di casa, aspettiamo domani se coincide. Ok, ciao. Sì, ok, Giovanni, ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Giovanni. Ok, chiudo, ciao.